24, la storia. Peroni per noi tifosi del Toro idealmente è lassù col Grande Torino, giocano tutte le domeniche senza anticipi o posticipi di campionato, loro alle 15 scendono in campo. Gigi Meroni, la mitica ala del Torino, Gigi Meroni, il capellone che gioca a calcio. Gigi Meroni è un giovane di soli 24 anni, morto, travolto da un'automobile il 15 ottobre del 1967. Quella che vogliamo raccontarvi oggi a Mix 24 non è solo la storia di un campione di calcio, ma anche la storia di un'intera generazione, quella dei ragazzi degli anni 60, gli anni dei Beatles, del Vietnam, di Che Guevara, anni che dividevano come divideva appunto Gigi Meroni. Un calciatore amato e detestato che in un'Italia ancora molto conservatrice fa scandalo con la sua capigliatura, con quel suo esibizionismo un po' ingenuo. Ma poi quel ragazzo di Como incanta tutti con i suoi dribbling e con i tiri tagliati che lasciano di sasso i portieri avversari. Perché lui, Meroni, la farfalla granata, nel campo si diverte e fa divertire come nessuno prima. Gigi Meroni ha lasciato dietro di sé un ricordo che va oltre il calcio. A Torino, nel punto in cui si è compiuto il suo amaro destino, ci sono sempre mazzi di fiori freschi. I tifosi del Toro lo ricordano così. Sentite Stefano Della Casa, critico cinematografico, e Nando Dalla Chiesa, che su Meroni ha scritto un libro. Il Toro fu definito da Giovanni Arpino con un aggettivo che era tremendista. È una squadra che la si ama tanto e per la quale si partecipa tantissimo alle cose che avvengono. L'aggettivo tremendista vale molto bene per Meroni, perché era uno che con due tocchi saltava tra avversari, entrava in area, segnava, faceva le foglie morte. Gigi Meroni ha rappresentato una generazione, lo spirito di una generazione, quella della metà degli anni 60, quella che si preparava ai grandi cambiamenti dei costumi, della mentalità. Lui ha preceduto quella generazione sul campo di calcio, cioè in uno degli ambienti più conformisti per definizione, senza volere portare nessun messaggio politico. L'immagine della farfalla granata è l'immagine di un giocatore che sembra quasi volare sull'erba. La storia di Gigi Meroni, il ragazzo di provincia, inizia a Como il 24 febbraio 1943. Ancora piccolissimo, Meroni perde il padre. Sua madre, Rosa, è costretta a tirare la carretta dalla mattina alla sera per mantenere Luigi, il fratello più grande, Celestino, e la piccola Maria. Rosa lavora a domicilio per l'industria tessile comasca. Dopo la scuola i figli l'aiutano. È una vita dura, fatta di poche cose. Nel tempo libero ci sono gli amici e il pallone. Questo è il ricordo di suo fratello Celestino. Era obbligatorio imparare, chi era più bravo giocava di più, nel senso che era sempre in possesso della palla. Uno scarso non toccava mai la palla. E il più bravo chi era? Gigi. Da giovanissimo fa un provino per l'Inter ed è così bravo che viene preso subito. Ecco come ce lo raccontano la sorella Maria e il suo amico Battista Ghioldi. Lui giocava all'oratorio a San Bartolomeo. E poi l'avevano chiesto appunto all'Inter e era andato a fare il provino, diciamo. Praticamente l'avevano preso. È venuto qualcuno qui per firmare il contratto. Oh, stand now, stand by me, stand by me. Mia mamma assolutamente non voleva che lui andasse a Milano da solo due volte a settimana col treno, così, e quindi lei gli ha strappato il cartellino. E per fortuna è andato al Como, perché qualcuno l'ha convinto che tanto Como era qui, ma per i genitori di una volta speravano che i figli andavano a lavorare, non che facessero il calciatore. Che mestiere ha fatto prima di fare il calciatore? Guardi, ho fatto disegnatore, Disegnatore schizzista, per foulard disegni tessili per donne. Quindi guadagnava abbastanza? No, pochissimo guadagnavo. Guadagnavo pochissimo perché ero ancora apprendista, dovevo ancora imparare. Ho guadagnato qualcosina dopo quando giocavo e lavoravo allo stesso tempo. Vincendo le resistenze della madre, Gigi tenta la via del professionismo. Non ci mette molto a farsi notare. È un talento naturale. Gioca prima nel Como, poi al Genova, che sta tornando in Serie A dopo una retrocessione. Il primo gol di Meroni arriva in Coppa Italia, contro l'Udinese. È il 10 settembre del 1962. Gigi ha il fisico gracile, ha poco torace, ma dimostra a tutti che ha i piedi buoni. Il 5 maggio 1963 arriva anche il primo gol in campionato, durante una gran partita con il Lanerossi Vicenza. La Gazzetta dello Sport lo elegge miglior giocatore in campo. Così Nando Dalla Chiesa. Senza fine, tu trascini la nostra... Io credo che Genova sulla mentalità, sul modo di essere di Meroni abbia contato. Che questo abbia coinciso anche con la nascita di una grande generazione di cantautori genovesi, è probabilmente favorito dai tempi e da quello che una città come Genova, una città di mare, poteva stimolare, una città aperta dove ha fatto conoscenze, dove si è anche innamorato. È la Genova dei primi anni 60, la Genova di Tenco, Gino Paoli, la città di Lauzi e di De André. L'intera società italiana sta cambiando e Meroni è un giovane curioso e attento. Proprio a Genova Meroni incontra Cristiana, una ragazza polacca, figlia di Giostrai. Cristiana lavora al Luna Park e è la ragazza che carica i fucili del tiro a segno che diventa il grande amore della vita di Meroni. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Allora riprendiamo la storia di Gigi Meroni, il ragazzo che giocava un altro calcio, l'eclettico giocatore del Torino che trova l'amore al Luna Park. Ma lei è già promessa sposa dell'aiuto regista del film Boccaccio 70, che l'aveva conosciuta durante le riprese del film La Riffa con Sofia Loren. E in quell'occasione la produzione aveva noleggiato dalla famiglia di Cristiana il tiro a segno. Ma sentiamo come ce la raccontano Giampaolo Ormezzano, giornalista sportivo, e Nando Dalla Chiesa. L'aiuto regista di quel film si era innamorato di Cristian. Aveva chiesto Cristian in sposa ai suoi. Cristian era una bambina, aveva poco più di 16 anni, ma poi Cristian si era innamorata di Gigi Meroni. Era promessa sposa però all'altro, si usava ancora così. Andò in sposa a Roma, in una chiesa, rappresenta il bel mondo del cinema italiano e il mondo del Luna Park. Va a vedere lei che si sposa, come nella scena del laureato, sperando che dica di no. Gigi era lì, presso il confessionale, si aggirava, sperava che cambiassero le cose all'ultimo. Cristiana gli aveva detto, stai tranquillo, amo te. Cristiana disse sì all'aiuto regista, divenne sua moglie, e Gigi Meroni, nascosto, intanato, chissà da qua, dove, in quella chiesa, qualcuno disse, in un confessionale, non ebbe la forza di gridare un no. Poi però lei il matrimonio lo rompe, si rimettono insieme e anche questa relazione con quella che era considerata la bella delle belle nel mondo dei Luna Park ha in sé qualcosa di grandemente romantico. Intanto la consacrazione calcistica di Meroni arriva con Genoa a Fiorentina il 27 ottobre 1963. Gigi è in gran forma e segna 2 gol. I cronisti sportivi scrivono che è nato un campione, addirittura il nuovo Sivori. Non mancano, tuttavia, di mettere in evidenza che la sua capigliatura somiglia a quella dei Beatles, che hanno oramai raggiunto la fama mondiale. Comincia, insomma, ad affermarsi il personaggio del giocatore ribelle e un po' artistoide. La partita con la Fiorentina gli frutta una convocazione in Nazionale B, ma quello con il commissario tecnico Edmondo Fabbri sarà sempre un rapporto difficile. Questa è l'intervista a Beppe Viola del 5 novembre 1963. Questa è la prima volta che viene convocato in nazionale? Sì, sì. Se l'aspettava questa convocazione? Ma speravo che me l'aspettassi, non posso dirlo. Troviamo un po' diverso come aspetto dal solito, cos'è successo? Mi hanno fatto tagliare i capelli, come vede. È stato Fabbri? No, è stato Fabbri, mi ha chiesto se potevo tagliarli, che faceva piacere. Insomma. Lei sa che fine ha fatto Sansone quando gli hanno tagliato i capelli? No, spero proprio di non fare come lui. In nazionale, Meroni viene schierato alla sinistra, ma anche come giocatore Gigi è fuori dagli schemi, difficilmente catalogabile. Si comincia a discutere su quale sia il suo ruolo. Così si racconta lo stesso Gigi Meroni e poi Sandro Mazzola. Guarda, io ho sempre desiderato fare dei gol più che entrare in porta col pallone, quello sarebbe fin troppo bello. Penso proprio di essere un giocatore di punta, insomma. Era atipico. Perché però era nel calcio di allora, cioè era un giocatore che inventava il calcio. Tu non potevi mai prevedere cosa ti faceva in campo Meroni, perché tu prevedevi due o tre cose e lui ne faceva un'altra. Cioè erano quei tipici giocatori di talento enorme, che aveva grande tecnica con la palla e aveva inventiva, era un artista del pallone. Ormai non è più una sorpresa e il suo valore di mercato inizia a salire. Nell'estate del 64 il suo cartellino viene conteso tra le grandi squadre. Di fronte ad un'offerta di 300 milioni, il presidente del Genoa non può resistere. È la cifra più alta pagata fino a quel momento per un giocatore di 20 anni. Enrico De Aglio quei momenti li ricorda così. Meroni fu il grande acquisto del Torino. Quando il Genoa lo dovette mollare, ci furono le barricate a Genoa, no? Gli operai di Genoa, i portuali, eccetera, e protestavano perché la società aveva venduto la stella, che era Gigi Meroni. Questa è la storia. Ed era una star e si comportava anche come una star. Cosa ne fa dei soldi? Li spendo. Non ha un piccolo risparmio? Sì, qualcosa, ma mi piace spendere dei soldi. Li faccio girare, capisci? Ridete pure, se li fa. A Torino, Meroni rifiuta l'appartamento borghese che la società gli offre. Decide di vivere in centro, in una mansarda che si affaccia sulla piazza più romantica della città. È il luogo giusto per dare sfogo alla sua creatività artistica. Da ragazzo, quando disegnava stoffe per le seterie comasche, gli è nata una passione per il disegno e la pittura che non lo ha mai lasciato. Di solito, Meroni i quadri li comincia la domenica sera, dopo la partita, e spesso sta sveglio tutta la notte davanti al cavalletto. Un personaggio multiforme, unico nella storia del calcio italiano, come racconta l'amico Giampiero Della Torre. De Mila, me veni in mente comprare una balila. A un bel momento mi dice, ho comprato la Rolls Royce. Prima ho detto che era una Rolls Royce. Sì, bisogna andare a prendere una Vercelli in un pollaio. Beh, totale era una balila. Era un proprio adibita a pollaio. Tutta sporca, un disastro. E poi abbiamo rifatto completamente tutto come la voleva lui. Con tutto trapuntato dentro, con proprio, guarda, la lampadina abajur. Goganga, goganga, goganga, ginga, che go go go ganga go. Gigi Meroni si diverte a fare l'eccentrico, un po' per gioco, un po' per non darla vinta a chi critica il suo stile da capellone. Sentiamo ancora Fabrizio Poletti, ex giocatore del Torino. Centro di Como, nella piazza di Como, sotto i portici abbiamo cominciato a passeggiare con la gallina, il guinzaglio. Imperterri, tranquilli, ci siamo seduti al bar, abbiamo preso le nostre consumazioni, le siamo passati davanti ai fanatici o presunti fanatici che erano poi quelli che criticava il Gigi, e quindi siamo passati tranquilli, ecco, un pochino per sotto questo aspetto io penso che lui l'abbia fatto anche, una forma di ripicca nei confronti di chi lo voleva criticare per i suoi atteggiamenti. Il quinto Beatles, come viene chiamato, non è sopra le righe solo nelle strade di Como. Prima di diventare un calciatore, aveva lavorato come disegnatore di cravatte e quella passione se l'è portata anche nel mondo del pallone. Giacche, pantaloni, camicie, tutto quello che Gigi Meroni indossa è figlio della sua fantasia. Comunque Meroni, lei deve avere un disegnatore speciale per questi suoi vestiti. Sì, ce l'ho il disegnatore speciale. Sono io. Me li disegno io, pantaloni, giacche, scarpe qualche paio, porto dal sarto che è molto bravo e lui mi sviluppa le mie idee nei vestiti, insomma. E infatti così lo ricorda il suo sarto, Pino Tricase. Bisognava stare attenti che la lunghezza della manica doveva essere come lui diceva, che le doveva uscire, corta la manica, perché le doveva uscire il polsino della camicia, quei centimetri che lui ci teneva ad avere. Insomma, era tutta una questione di centimetri, di di proporzione, idee sue chiarissime, che poi bisognava realizzare, come anche fu il famoso paletò, quando poi decise, dice, mi farei un paletò alla Napoleone. Nulla è semplice per Gigi Meroni, neanche trovare un numero di maglia stabile. I commentatori più critici sostengono che è solo un giocoliere, che non è né un goleador, e in effetti segna poco, solo gol belli, né un centrocampista. Per trovargli una posizione in campo, gli allenatori le provano tutte, ancora Mazzola e Nando Dalla Chiesa. Beh, i numeri delle maglie significavano qualcosa una volta, cioè io per esempio il 7 non lo volevo assolutamente, non mi piaceva, mi sentivo emarginato. E invece Gigi si sentiva a suo agio col 7. Il numero 7 era la sua, era quella che gli era più congeniale, era il suo correre intorno ai bordi del campo, verso i bordi del campo, come aveva imparato a fare anche nel campetto dell'oratorio di Como. Era quello che gli consentiva più spazi, non avrebbe potuto essere la farfalla granata giocando al centro dell'attacco. Meroni in una squadra come quel Toro era veramente il fuoriclasse, quello che sì, è vero, guadagnava di più rispetto ai compagni, i miei compagni lo sapevano e ci stavano, pensavano che fosse giusto perché il pubblico veniva allo stadio anche per vedere lui, no? Perché si aspettava una magia, una sorpresa. Meroni il fuoriclasse, come dice lo scrittore Giuseppe Culicchia, Meroni con tutti gli occhi puntati addosso, Meroni il fantasista da cui ci si aspetta sempre un numero anche nella vita. La sua convivenza con una donna sposata nell'Italia che ancora non ha una legge sul divorzio è uno scandalo. Mix 24, la storia. Bentornati di nuovo a Mix 24. Gigi Meroni, il campione del Torino negli anni 60, un fuoriclasse del pallone, stupisce, scandalizza anche nella vita privata. Meroni e la sua Cristiana sono considerati una coppia di concubini, di peccatori e la stampa di Marca Stretto. Ma Meroni ignora tutti e tira dritto. Se anche la gente lo disapprova, lui vuole viversi fino in fondo la sua storia d'amore. I suoi amici e la stessa Cristiana lo raccontano così. Non c'era parola o discussione o qualsiasi dialogo che non ci fosse dentro la Cristiana. Finiva l'allenamento, macchina dalla Cristiana, andava a casa da Fabrizio, questo mi ha raccontato la mamma di Fabrizio, finito di mangiare col boccone ancora in gola, giù da Cristiana, il ritiro, telefono a Cristiana, lui era sempre solo Cristiana. Poca gente credo abbia una vita, abbia avuto una storia così intensa, così bella. Molta poche persone credo. E io sono una fortunata, mi sento. No, la trattava come una regina questa donna proprio. Passava la sera, si pigliava i due fiori da portare in casa. Se non c'era, lasciava la delega a me di portare tutti i giorni i suoi fiori. Che fiori comprava? Le rose. Una rosa rossa. Tutti i giorni una rosa. Nell'aprile del 1965 Edmondo Fabbri lo convoca in Nazionale A per la partita di qualificazione ai mondiali contro la Polonia. All'arrivo a Varsavia Meroni viene fotografato con la barba lunga, vestito in modo vistoso. Il suo atteggiamento è considerato scandaloso e in Italia parte una dura campagna stampa in cui lo si invita a non fare il pagliaccio. Alla fine Meroni non giocherà, così Nando Dalla Chiesa. Fabbri lo prese da parte, gli disse, gli fece vedere la maglia numero 7, se ti tagli i capelli è tua. E Meroni si rifiutò di tagliarsi i capelli, lo aveva fatto nella nazionale B, lo aveva già fatto una volta, se li era tagliati a 19 anni, ma era diventato troppo grande a 23 per farlo di nuovo. Gigi Meroni replica. Non è una questione di capelli, di gusti musicali, è una questione di libertà. Credo di assolvere fino in fondo i miei obblighi verso lo sport, perché non dovrei aver diritto a quel poco di vita privata che mi resta. È la stagione 65-66, il Torino che l'anno precedente è arrivato terzo inizia il campionato pieno di grandi speranze, invece la squadra stenta a decollare e alterna prestazioni esaltanti ad altre molto deludenti. Anche Meroni è molto discontinuo, non sempre gioca come sa fare, ma quando lo fa incanta con le sue magie. La Torino Granata lo ama sempre di più e lui diventa una bandiera dei suoi tifosi. Sentiamo Giampaolo Ormezzano e poi una battuta del suo allenatore di allora, Nereo Rocco. Tanta gente si aspettava il momento in cui lui, con un'inadempienza sul piano disciplinare, sul piano comportamentale, permettesse di fargli delle reprimende, di sgridarlo per tutto il resto. Non diede mai l'occasione. Rocco, il parone, Nereo Rocco mi diceva, mi facesse tanto così, ne ho di robe da dirgli per come si veste, si fa crescere i capelli, ma non me le fa. È il più preciso, perfetto, onesto in campo, in allenamento. Il ragazzo è tanto bravo, malgrado le apparenze, è talmente ubbidiente, talmente che se anche non lo fa, cerca almeno di farlo. Il 13 marzo del 66 la nazionale B affronta la nazionale B del Belgio. Meroni fa un partitone e segna un gran gol. A questo punto è impossibile non convocarlo in nazionale per i mondiali in Inghilterra del 66. Gigi non parte titolare, ma quando entra mette in mostra tutto il suo repertorio di assist e gol. Italia-Bulgaria finisce 6-1. È in questa partita che segna uno dei suoi gol più ricordati. Le sue quotazioni continuano a salire. Eccolo intervistato per la Domenica Sportiva da Enzo Tortora. Vediamo di rompere un po' allora la monotonia, di soddisfare qualche curiosità. Meroni, per esempio. Lasciamo la notizia dei 500 milioni, perché credo che Meroni, vero Gigi, la pensi esattamente allo stesso modo. Non credo che abbia cambiato da quando costa 500 milioni. Per niente, per niente, guarda, io sono rimasto sempre quello di prima. La mia valutazione non è un pensiero per me, casomai deve essere un pensiero per quelli che mi hanno valutato questa cifra. In nazionale, tuttavia, Meroni resta un outsider. La squadra che deve andare a giocare mondiale in Inghilterra nell'estate del 66 è tutta costruita sul Milan e sull'Inter, con grandi nomi come Rivera, Mazzola e Facchetti. Quella di Meroni è sì una convocazione a sfuror di popolo, ma poco amata dagli ambienti ufficiali del calcio. Così la sorella Maria. Il vicino è andato via già, fatto dei capelli lunghi, l'avevano già un po' tartassata prima, quindi mi ricordo che Celestino voleva andare in Inghilterra a vedere la partita, ma lui ci ha telefonato, ha detto non venire perché non mi fanno giocare, perché Luigi no con Fabri non aveva un buon rapporto. La triste vicenda dell'Italia ai mondiali in Inghilterra del 66 è nota. Nella prima partita contro il Cile, l'Italia non gioca bene ma vince. Meroni è fuori. Gioca invece contro l'Unione Sovietica. L'Italia perde 1-0. Quando poi si tratta di giocare con la Corea, Meroni è fuori di nuovo. L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè. Al rientro in Italia i tifosi contestano gli azzurri, ma insieme al commissario tecnico Fabri, il più bersagliato, incomprensibilmente, è proprio Gigi Meroni. Sentiamo Mazzola, che all'epoca giocava con lui. Quando siamo ritornati dalla trasferta con la Corea, che fu mandato al massacro lui, aveva la sua balilla che lo aspettava all'aeroporto e fu detto a chi gli portava la macchina di andare a un ingresso dove c'era solo lui e tutti gli altri dall'altra parte, quindi il giorno dopo me ne raccontò di tutti i colori. All'inizio del campionato 66-67, a dispetto dei mondiali andati male, il valore di mercato di Meroni sale ancora. Anche come giocatore, Meroni sta maturando, sta diventando più concreto. Il 12 marzo 1967 a San Siro si gioca Inter-Torino. Sono in panchina Elenio Herrera e Nereo Rocco, i due grandi rivali. In questa partita arriva quello che tutti considerano il suo gol più bello, che alla fine costò lo scudetto all'Inter. Così Sandro Mazzola. Io lo chiamai per complimentarmi perché fece un grande gol partendo da destra, dribblando, vedendo il portiere fuori, palla a giro, cioè i gol che sapeva fare lui, no? Lui li ricamava i gol. È un gol fantastico, Un gol di quelli che entrano a pieno titolo nella storia del calcio. Meroni però sembra fatto per creare polemiche, come quando l'avvocato Agnelli, grande conoscitore di calcio e di calciatori, lo vuole a tutti i costi nella sua Juventus e per averlo è disposto a sborsare la cifra record di 750 milioni di lire di allora. Ma i tifosi del Toro naturalmente non sopportano l'idea e, come era già successo anche a Genova, anche stavolta la gente scende in piazza per impedire che Meroni passi ai bianconeri. Così Enrico De Aglio. Sono state delle manifestazioni addirittura a Torino, sotto la casa di Gianni Agnelli in Corso Matteotti, con le bandiere rosse, ed era la prima volta che a Torino si vedevano le bandiere rosse, erano nel 67, ed erano contro la cessione di Meroni alla Juventus. Erano le bandiere granata, no, granata, rosse. C'è sempre quello equivoco. Il passaggio di Meroni alla Juventus non avverrà mai. Intanto, nella vita privata, le cose sembrano migliorare, perché Cristiana ha ottenuto l'annullamento del suo precedente matrimonio e i due si possono finalmente sposare. Ma il 15 ottobre 1967, il giorno in cui il Torino vince la Sampdoria, i giocatori, per premio, possono tornare a casa prima. Ora che sta per sposarsi, Meroni si è trasferito. Con Cristiana abita in Corso Re Umberto. Come al solito è insieme all'amico Poletti, ma è senza chiavi. E per telefonare a Cristiana vanno al bar di fronte. Eravamo insieme e per non tornare all'incrocio abbiamo deciso di passare la strada, cioè il viale, in mezzo. Si vede che lui era mezzo metro più indietro di me. E sopraggiunta, non mi sono accorto di niente, sopraggiunto sta macchina di dietro, mi ha preso a me nel polpaccio e io sono caduto. Quando mi sono ripreso ho cominciato a vedermi attorno, a chiamarlo e me lo sono visto per terra. La macchina era una Lancia Flavia ed era guidata da un ragazzo giovane che si chiamava Attilio Romero. Meroni era in mezzo alla strada, vede un'automobile che gli arriva in senso opposto, si spaventa, fa un passo indietro. Passo io, lo tocco, poi lo ritocco in un'altra macchina. Un destino particolarissimo, che lo metta sotto un ragazzo che portava i capelli come lui per imitarlo, un tifoso di Meroni che diventerà presidente del Torino, al fatto che poi sia il padre di questo ragazzo che cerca di salvarlo nell'ospedale in cui viene portato. Un destino beffardo che unisce in questo tragico evento le vite di un campione e di un uomo che lo amava tantissimo e che un giorno diventerà presidente del Torino Calcio. A casa intanto Cristiana capisce qualcosa. Ero molto distante quando ho cominciato a dire a lui: cioè, per me è successo qualcosa. Lui, infatti, sono arrivata e non l'avevano ancora riconosciuto perché lui si era tagliato la barba. Si era tagliato la barba, perciò dicevo: ma sembra Meroni. Infatti l'abbiamo preso, l'abbiamo portato all'ospedale, pensando che fosse vivo perché sentivamo battere il cuore. Per il campione c'è ancora una sottile speranza. Così Enrico De Aglio e Ormezzano, che era lì, all'ospedale Mauriziano di Torino. Lei si immagini una scena di fronte alla porta del pronto soccorso, dove ci saranno state tutti, infermieri, medici, allievi interni, tutti quanti, cronisti, giornalisti, tutti, no? Di fronte a questa porta, tant'è vero che venne fuori l'infermiere e disse: questa fase qua non si sa se vive, ma se vive non potrà più giocare a pallone. E Cristiana era di fianco a me, Cristiana, io e il presidente Pianelli. E uscì il medico, allargò le braccia e l'urlo di Cristiana lo sento ancora adesso, lo giuro. Ma non ho mai più sentito un urlo di questa violenza, di questa irreparabilità, ecco, un urlo che non seppi scrivere. Poi arrivarono tutti i compagni di squadra, Combin, no? Combin era fuori di testa, no? Arrivò tutto lì. Mix 24, la storia. Gigi Meroni è un giovane di soli 24 anni morto, travolto da un'automobile il 15 ottobre del 1967. Una morte tragica, quella di Gigi Meroni, che lascia la città sbigottita. Il corpo di Meroni viene composto nella sede del Torino. A vegliarlo sono i compagni, ma per tutto il giorno, per tutta la notte, migliaia di tifosi sfilano davanti al feretro. Non è morto solo un calciatore, è morto un campione, un artista del pallone. Nereo Rocco, il grande allenatore, aveva pronosticato che a 25 anni Meroni sarebbe diventato un giocatore completo. Ma a 25 anni Meroni non c'è arrivato. La settimana successiva alla sua morte il Torino gioca il derby contro la Juve. Così Giampaolo Ormezzano. Torino-Juventus, un derby che sulla carta era tutto dei bianconeri, anche tenendo conto della situazione psicologica di Granata, venne clamorosamente rovesciato da tre gol di Nestor Combino, o Combin, per chi lo pronunciava la francese, e tre gol bellissimi, tre gol di possesso, tre gol furiosi. E poi il quarto gol, di un 4-0 sonante, fu segnato da chi portava quel giorno la maglia di Meroni, Carelli, un giovane delle squadre Granata, assurdo, come si diceva allora, agli onori della prima squadra. Devo a Meroni quel derby, perché glielo dobbiamo tutti noi granati. E da allora, il giorno della ricorrenza della morte di Meroni, la squadra giocherà sempre con una carica particolare. Così lo scrittore Giuseppe Culicchia. C'è questa leggenda che riguarda il fatto che il Toro vince o comunque pareggia ogni partita che gioca nel giorno dell'anniversario della scomparsa di Gigi Meroni. Proprio che una leggenda è un dato statistico, quindi tutti noi ci auguriamo che continui così la tradizione. Buongiorno Gramellini. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Tu sei un grande tifoso del Toro. Che cosa ha rappresentato Gigi Meroni per il Torino? Per il Torino ha rappresentato il ritorno della fantasia e dell'entusiasmo 20 anni dopo quasi la tragedia di Superga. Di Superga, certo. Ma tu come l'hai saputa la morte di Meroni? Io ero un bambino, avevo 6 anni, non ero ancora neanche così convinto di essere tifoso del Toro. Mio papà, che era molto granata, diceva: se vuoi mangiare in questa casa devi essere del Toro. Io ero un bambino piuttosto pieno di appetito, quindi diventai del Toro così. Ma quando mi innamorai del Toro, il giorno che conobbi la morte, io l'ho conosciuto attraverso Gigi Meroni, perché una mattina che ero a casa da solo, che giocavo, avevo l'influenza, ma in realtà mi ero alzato e giocavo con una pallina facendomi la radiocronica e fingendo di essere Gigi Meroni che scartava tutti i giocatori della Juve, perché certo, la domenica naturalmente sarebbe stato il derby e improvvisamente, quando ero lì a porta vuota, stavo per segnare, mi suona il citofono di casa, il campanello, apro e c'era un bambino della Juve, che non dimenticherò mai più, che mi guarda e dice: Meroni è morto, Meroni è morto. Ma io è terribile. Appresi così questa, e ti dico, l'emozione più forte della mia infanzia da tifoso fu la domenica successiva, andare allo stadio, il Toro vinse il derby 4-0, famosissimo, e tutto lo stadio, compresi i tifosi della Juve, allora funzionava ancora così il calcio, si mise a gridare Gigi Gigi e tutti piangevano, e io non riuscivo a capire perché se vincevamo 4-0 piangevano tutti. Senti, ma secondo te dopo c'è stato un giocatore granata che per un momento, almeno con un guizzo, ti ha fatto pensare: ecco, ci abbiamo un nuovo Meroni? Ma noi, guarda, noi tifosi del Toro cerchiamo in tutti i giocatori di talento che capitano nella nostra squadra il nuovo Meroni. Lo abbiamo visto in Claudio Sala, che è stato un grande campione, che era un'altra ala destra, che certo, era capace di giocare con la palla attaccata al piede come se fosse legata con un cordino. Lo abbiamo visto in Gigi Lentini, lo vediamo anche un po' oggi in Cerci. Noi in qualunque giocatore di fantasia, insomma, la speranza non muore. Sì, deve avere quelle caratteristiche, quel deve essere un po' di inoccolato. Certo, Meroni è unico, unico, anche perché ancora a parlare oggi, anche perché più che un calciatore sembrava anche un intellettuale bohemien che interpretava proprio un'epoca. Nel calcio d'oggi spazio per personaggi così forse ce n'è meno. Ce n'è apparentemente così. Io poi credo che in realtà noi siamo sempre portati a guardare al passato con l'occhio, no, un po' distorto, anche certo, della giovinezza o nel mio caso dell'infanzia. Ogni epoca poi ha i suoi miti, ha i suoi modi, e ogni epoca ha anche un modo per esprimere i suoi miti. Certo, in quegli anni lì Meroni ha rappresentato qualcosa di grande. Ti ripeto, se oggi, a così tanto tempo di distanza, continuiamo a parlare di lui e non di altri giocatori magari altrettanto forti, sì, è perché oltre che l'effetto della sua morte così drammatica. Ma certo, il morire a 24 anni con quel talento resta scolpito, come James Dean, non lo so, qualcosa del genere. A chi crede a queste cose, il pilota dell'aereo di Superga si chiamava Gianluigi Meroni. Accidenti, pensa, questa non lo sapevo. Pensa che cosa incredibile. E dopo la persona che, ovviamente involontariamente, perché era un grande tifoso del Toro oltretutto. Ma è incredibile, questa è una notizia, non la sapevo proprio. Quella di Meroni, del pilota. La storia del Toro ha questi ritorni, diciamo così, incredibili. Vabbè, sei torinista, sei proprio torinista fanatico, perché riesci a vederle dappertutto. Beh, ma te ne dico un altro che forse non sai. Il Toro ha avuto come presidente Tilli Romero, che è stato l'uomo che involontariamente, il del Toro. Quindi tu pensa, è stato accagionato questo fatto. Quindi veramente, quello è stato l'ennesimo momento, no? Certo. La storia del Toro sembra un film, sembra un grande romanzo Senti, non riesce a essere dimenticato. Ti chiedo un'ultima cosa. Senti, Torino ha un'immagine romantica, comunque, anche da juventino devo ammetterla, però romantica ma anche un po' malinconica. Perché? Il Torino? Insomma, il Torino o Torino? Mi chiedi? No, il Torino. Il Torino, il Toro. Sì, il Toro. Ma sai, queste tragedie hanno segnato inevitabilmente, cioè noi non riusciamo a venirne fuori, noi tifosi, io dico sempre che il grande Torino, quando vinceva, non era una squadra sfortunata, per cui perché noi dobbiamo invece continuare a pensare che il Torino debba essere maledetto dagli dèi? Ha avuto, diciamo, queste tremende tragedie, ma noi dovremmo forse a questo punto cercare di guardare di uscirci, però talmente forte, guarda che quella vicenda, io me la rendo conto, perché ancora se la ricorda e me la racconta, è stato un caso unico al mondo, non si è mai più verificato che un'intera squadra di fuori classe morisse in quel modo, per cui e Meroni ha in qualche modo ribadito nel convincimento dei tifosi un destino, una sorta di destino. Noi giochiamo sempre in rimonta contro il destino, vinciamo poco, ma forse proprio per questo quando vinciamo godiamo, uno se lo ricorda, soprattutto se è un derby. Ciao, grazie. Mille. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia, e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.